sembravano infinite, quando un brivido nell'anima di vuoto mi riempiva, ho fermato tutto ed ho pensato a te. Tu che dolcemente mi hai tirato su, che mi riapri gli occhi quando cado giù, sei la mia decisione, sei l'unica soluzione, mi ha chiamato, ho detto ecco manda a me. Scappato via per